L'occhio di Carafa, 1532-1534. Lettera inviata a Roma dalla città di Strasburgo, indirizzata a Gian Pietro Carafa, datata 20 giugno 1532. All'onorandissimo signore mio Giovanni Pietro Carafa in Roma. Signore mio munificentissimo, la notizia della stipula della molto auspicata alleanza tra Francesco I e la ledra di Smalcalda mi riempie di speranza. I principi protestanti e il cattolico re di Francia uniscono le loro forze per arginare il potere dell'imperatore. Non v'è dubbio che la guerra riprenderà presto, soprattutto se le voci che mi sono giunte attraverso canali assai riservati a proposito di una trattativa segreta tra Francesco e il turco Solimano troveranno conferma nei prossimi mesi. Ma la signoria vostra è sicuramente più erudita di questo suo umile servitore, che scruta di traverso, da questo angolo di mondo in cui la generosità vostra ha concesso che svolgesse il suo piccolo compito. Eppure, come osserva giustamente il mio signore, i tempi ci impongono una vigilanza costante e solerte, onde non essere travolti, aggiungo io, da un incendio che cova sotto la cenere e si prepara a deflagrare con irruenza inaudita. Mi riferisco ancora alla peste anabattista, che tante vittime continua a mietere nei Paesi Bassi e nelle città di confine. Dall'Olanda giungono mercanti che raccontano di come vi siano già fitte comunità di anabattisti a Hemden, Groninga, Leeuwarden e finanche ad Amsterdam. Il movimento ingrossa le sue fila ogni giorno e si estende come una macchia d'inchiostro sulle mappe d'Europa. E questo proprio quando il cristianissimo re di Francia sta per riuscire nel suo intento di raccogliere in una salvafica, per quanto bizzarra alleanza, tutte le forze avverse a Carlo e al suo sconfinato potere. Come la signoria vostra sa bene, la provincia imperiale dei Paesi Bassi non è un principato, ma una federazione di città, legate l'una all'altra da intensi traffici commerciali. Esse si considerano libere e indipendenti, tanto da saper fronteggiare l'imperatore Carlo con caparbietà e coraggio. Carlo V è lassù il rappresentante della cattolicità, e non è difficile leggere nell'avversione di quelle popolazioni per la Chiesa di Roma l'odio antico che nutrono per le mire dell'imperatore. In questo momento, quest'ultimo è impegnato a organizzare la resistenza contro i turchi e ad arginare le manovre diplomatiche del re di Francia. Non può quindi prestare molta attenzione ai Paesi Bassi. A questo si aggiunga lo stato penoso in cui versa la Chiesa in quelle terre. Simonia e lucro comandano incontrastate su conventi e vescovadi, suscitando lo scontento e l'ira della popolazione e spingendola ad abbandonare la Chiesa o a cercarne un'altra, nelle promesse di questi predicatori erranti. E così l'eresia, approfittando dello scontento generale, riesce a trovare nuovi canali di diffusione. Il giudizio del servo della signoria vostra è che il pericolo rappresentato dagli anabattisti sia più consistente di quanto a prima vista appaia. Se essi riuscissero a guadagnare la simpatia delle campagne e delle città commerciali d'Olanda, le loro idee eretiche non avrebbero più contenimento e viaggerebbero sulle navi olandesi alla volta di chissà quali e quanti porti, finanche a minacciare la stabilità conquistata da Lutero e dai suoi nell'Europa del Nord. E poiché la signoria vostra lusinga questo suo servo con la richiesta di un parere, mi sia consentito dire in tutta franchezza che al confronto della diffusione dell'anabattismo l'avvento della fede luterana è di gran lunga più auspicabile. I luterani sono gente con cui è possibile stringere alleanze favorevoli alla Santa Sede, come dimostra l'alleanza tra il re di Francia e i principi tedeschi. Gli anabattisti, al contrario, sono eretici indomabili, refrattari a ogni compromesso, spregiatori di ogni regola, sacramento e autorità. Ma non oso aggiungere altro, lasciando alla saggezza del mio Signore ogni valutazione, impaziente di tornare a servire la Signoria vostra con questi umili occhi e il briciolo di acume che Dio ha voluto concedermi. Sinceramente mi raccomando la bontà di vostra signoria. Di Strasburgo, il giorno 20 del giugno 1532, il fedele osservatore di vostra signoria, Q.